Tempo di sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Flavio Suardi in redazione, Fabio Cantadori in regia. 7.286.000 italiani ieri pomeriggio si sono divisi, può essere, di fronte alla querela che è nata ad Hockenheim dopo quel sorpasso, secondo me sacrosanto, che la Ferrari ha imposto di Alonso su Massa. Mi sembra a caso oggi, al di là di quelli che inviano i messaggi sulla moviola che sparisce dagli schermi Rai, sulle preamichevoli d'agosto, eccetera, eccetera, tutte queste cose insomma vanno a domani, a dopodomani, ai giorni che verranno, perché tanto a tempo di sport non va in vacanza. Oggi invece mi sembra a caso di accogliere le vostre telefonate da subito, 800 24 00 24, e di far partire subito i motori. Sport e motori. Sì, è il caso di far partire subito i motori, perché sono stati i giorni, ne abbiamo parlato e torneremo a parlarne anche oggi, dell'attacco furbino seguito alla stucchevole danza delle scuse e poi dal fair play di plastica sul Tourmalet, argomento Tour de France. Ora sono i giorni degli ordini di scuderia, insomma non simpaticissimi questi argomenti per lo sport, ma vale la pena appunto di parlarne subito con Mario Poltronieri. Ciao Mario. Ciao Carlo, buongiorno a tutti. La vera distorsione a parer mio è l'ipocrisia del regolamento che vieta il gioco di squadra nello sport professionistico. Mario, io continuo a pensare che l'unica regola è la ricerca della vittoria, e se la Ferrari vuole vincere il mondiale, l'uomo su cui puntare è Fernando Alonso. Tutto giusto, diciamo che storicamente c'è una serie di step. Il campionato del mondo era nato nel 50 come campionato piloti, è diventato campionato squadra nel 68 ed è stato praticamente ignorato dalla Ferrari, fino a quando il discorso squadra ha rappresentato e rappresenta enormi interessi economici e finanziari, per cui è chiaro che a questo momento quella norma, che viene da ridere quasi a pensarci, perché Todd adesso è presidente della federazione e dovrà discuterne, Todd stesso fece diciamo creare quando impose nel Gran Premio d'Austria del 2002 a Barrichello di rallentare per far passare Schumacher, che doveva vincere il mondiale inutilmente in quel caso in maniera inutile, in maniera ma lì fu anche Barrichello che lo fece platealmente, rallentando 200 metri prima del traguardo, quasi affermandosi, aspettando che passasse Schumi e poi dopo tagliando anche lui il traguardo. Quindi dicevo, in questo caso è una norma che ormai è anacronistica, questo sì. È un aspetto. Il secondo aspetto è che comunque questa polemica, questa querela, ha consentito di dare maggiore interesse a una gara dove invece la cosa più importante a notare è che la Ferrari ha dimostrato la completa competitività che già si era avvertita nel pur sfortunato Gran Premio di Inghilterra a Silverstone. Adesso la Ferrari è rientrata nel gruppo delle tre squadre, perché la Mercedes TP mi pare che continui a non andare molto bene, delle tre squadre, McLaren, Red Bull e Ferrari, che possono contendersi il titolo piloti e forse anche quello squadre. Più che un ordine di squadra fu un amichevole suggerimento che Massa ha poi giustificato dicendo che aveva avuto dei problemi di gomme e aveva rallentato. D'altra parte il rallentamento era troppo vistoso. Sì, ma non capisco Mario perché ci si debba nascondere come ladri. Secondo me è giusto che sia così, nel senso che stavo leggendo le dichiarazioni ad esempio di Briatore lasciate stamattina. Ha detto la Formula 1 è uno sport di squadra in cui vince uno solo, cioè il pilota che può vincere il mondiale, che è l'obiettivo della Ferrari, che come gruppo spende un sacco di soldi, l'obiettivo di tutti gli altri, perché non è questione che sia la Ferrari in questo caso. Direi le stesse cose fosse data la McLaren, la Red Bull o chiunque altro, secondo me è un'ipocrisia totale, un'idiozia dire non è possibile favorire il pilota che è in corsa per il titolo mondiale. No, ma infatti la scelta è razionale, perché se fosse stato Massa davanti come punteggio probabilmente avrebbero avuto qualche dubbio. In questo caso Alonso aveva già nella classifica mondiale un buon numero di punti più di Massa, questo senza voler far apparire chiaramente che la valutazione dei piloti è nettamente a favore di Alonso e Massa deve essere una spalla. Sì. Purtroppo Massa, per una serie di motivi, continua a credere che tutto sommato lui è in grado di competere alla pari e quindi vorrebbe continuare a correre contro Alonso, non capendo che ormai il discorso è chiuso. Sì. D'altra parte sì. Ti dirò, anche la Red Bull ha un problema molto grosso. È certo che ha un problema grosso, come tutte le squadre che dicono i piloti che corrono alla pari, si trova con due piloti con 136 punti a testa e con ogni probabilità non vincerà un mondiale in cui è stata almeno fin qui la macchina più forte. Io ho l'impressione sia un po' in calo a Red Bull, come l'anno scorso di questi tempi la Brown, però l'anno scorso non c'erano Ferrari e McLaren. Dunque la strategia, comunque la politica di avere due piloti sullo stesso piano non paga quasi mai, Mario. Non dimentichiamoci sempre quel discorso che oggi è importante che vinca la squadra, perché i soldi in gioco sono tanti. Quindi si deve cercare un equilibrio per cui, come sembra sia nella McLaren, in cui si sa già che teoricamente il pilota più forte è Hamilton, ma l'altro è abbastanza intelligente, è abbastanza abile per fare da spalla senza infastidirlo, ma con la capacità di cogliere, se eventualmente si prestasse l'occasione, come è stato nelle gare precedenti, di essere poi il vincitore, cioè di precedere il più irruente, il più aggressivo Hamilton, che quindi può fare più errori o può avere più problemi. Sì. E direi che oggi la McLaren, non c'è da meravigliarsi considerando la tradizione e la scuola, è quella che gestisce meglio il campionato. Nel caso della Ferrari era evidente che nel momento in cui si prende Alonso, che è un numero uno, già campione del mondo, è logico che si corre in favore suo. E purtroppo è lasciare a Massa di continuare a fare dei discorsi, anche se è stato bravo a dire no, ho avuto dei problemi di gomma, ma fare dei discorsi prima della corsa come se la corsa fosse realmente aperta. Sì, c'è una certa, comunque se si può trovare una colpa nella gestione di questa stagione della Ferrari, ma anche quella passata, è stato quello di non essere sufficientemente chiari con i piloti, no? Sempre questa, certo, scelta un po' di comodo nel dire sono tutte e due sullo stesso piano, quando è chiaro che prendi Alonso per vincere il mondiale con Fernando Alonso, se le cose vanno come devono andare. Ma tieni presente tra l'altro che se tutto fosse andato regolarmente, Massa avrebbe dovuto lasciare il posto, perché lui, mentre Vettel si suicidava cercando di chiudere Alonso, Massa si è trovato alla pista libera, è partito come una saetta e ha superato gli avversari, però uscendo con le quattro ruote al di là della riga bianca esterna della curva. Quindi riscatta la norma che bisogna dare il posto a chi si è superato in quella situazione. Sì. Per cui Massa è stato in testa in un certo senso irregolarmente, fino a quando Alonso lo ha poi passato comodamente. Senti Mario, prima ti veniva giustamente da sorridere nel pensare che la decisione su questa questione che viene portata alla FIA sarà in mano a Jean Todt, che insomma sapete bene era colui che guidava la Ferrari in quell'episodio che tu citavi di Barrichello del 2002. Jean Todt, che come è stato sottolineato oggi sui giornali da qualche collega, è stato quello che mai ha voluto Alonso alla Ferrari. Jean Todt, il cui figlio è peraltro agente di Massa, quindi ci sono varie componenti che rimangono lì come dati di cronaca a far da corollario a questa decisione che Todt dovrà esprimersi su questo caso. Ne parliamo subito dopo il traffico. 800 24 00 24, il numero verde. Già ho diversi messaggi, come chi sottolinea, in Formula 1 ci sono due pesi, due misure, la partenza di Vettel non era da sanzionare, secondo me era sì da sanzionare, perché ha rischiato di spalmare Alonso su quel muretto, non è stata sanzionata ed è stato un errore, un altro errore commesso ieri. Puoi immaginare, Mario, un sacco di sms e anche un sacco di ascoltatori che stanno per arrivare. C'è chi scrive: ma che campione è quello che per vincere ha bisogno che la scuderia gli fermi l'avversario? Beh, sul fatto che Schumacher ad esempio sia stato un campionissimo, che sul fatto che Alonso sia un campionissimo penso non ci possono essere discussioni. semplicemente gli si può dire con Alonso, con Massa che stava andando più lento, con la Red Bull che era in rimonta, gli si poteva anche stupidamente dire e adesso fatevi la guerra, poi avrebbero fatto battaglia con ampi rischi i due ferraristi e magari finiamo per buttare via una corsa in cui invece hanno fatto doppietta, o no? E infatti hai perfettamente ragione, soprattutto perché c'era stato l'esempio appunto di quel duello infernale tra Webber e Vettel, sì, che dove Webber è riuscito a arrivare ancora quarto, l'altro è rimasto fuori corsa, quindi ha perso punti importanti per la classifica del campionato. Se fossero arrivati come erano primo e secondo, avrebbero già scavalcato la McLaren. E tu hai accennato, è molto divertente, al discorso della posizione di Todd. E come si suol dire, a far peccato, cioè a parlare male, non si fa mai peccato, ma non si sbaglia quasi mai. Raramente. Voglio vedere l'ex direttore generale della Ferrari, adesso presidente della federazione, come si divide. Che avrebbe fatto esattamente la stessa cosa, ma perché l'ha fatto in passato, ma comunque perché come tutti i grandi uomini di muretto avrebbe dato chiaramente lo stesso identico ordine, e lo sappiamo tutti. Ecco, tieni presente comunque che la norma effettivamente ormai è anacronistica, su questo non c'è dubbio. Non è più un campionato piloti, questo è un campionato gommisti, è un campionato ingegneri, è un campionato tutto quello che vuoi, ma il pilota è uno dei cinque componenti della squadra, non è più un fenomeno. Cioè lo Schumi che stravinceva perché il box aveva almeno tre uomini forti, quindi il romantico campionato piloti appunto degli anni 50-60 eccetera ormai è finito, ormai sono corsi di squadre. Sarebbe come pensare al calciatore che piuttosto che dare la palla a un compagno antipatico, sì, si lascia portare via il pallone, sì, dall'avversario. Sì, sì. Certo, quindi... certo. No, ma è così, insomma, è un gioco di squadra in cui uno deve vincere, in cui c'è una prima punta, che nel caso della Ferrari è chiaramente Fernando Alonso. C'è chi scrive che le cose, io licenzierei in massa perché ha fatto il bambino facendolo in modo palese poco intelligente, Angelo da Verona. Altri che scrivono il problema è che queste porcherie le fa sempre la Ferrari. Non è vero che le fa la Ferrari, le fanno anche gli altri, ma giustamente, e non sono porcherie secondo me, è semplicemente sport professionistico. Se un pilota è considerato prima guida lo dimostra in pista, se non riesce a superare il numero due allora non merita di vincere. Vale qui il discorso che ho fatto prima, li facciamo scannare in pista poi magari vanno fuori tutte e due. Stefano da Torino, buongiorno. Buongiorno, ciao, buongiorno. Ciao. Allora, ma solo un paio di considerazioni, una legata all'altra. Credo che il problema, vabbè, non sia l'ipocrisia della regola, che è veramente ipocrita, è d'accordo, però se partiamo dal presupposto che anche se è ipocrita è comunque una regola, credo, come qualcuno faceva notare ieri dopo la corsa, che io resto stupito da osservatore, nel senso che credo che la Ferrari, no, la Force India o qualunque altra squadretta abbia sicuramente dei metodi o degli stili, non lo so come vuoi tu, diversi per fare la cosa, ben sapendo che c'è la regola. Questo è vero, l'hanno fatto in maniera molto palese, molto ingenua, infatti sono beccati la multa, ma più per, io credo, per ingenuità, no? Mario, resta il fatto che certamente alla Ferrari hanno sbagliato i modi, no, della gestione della situazione. Tu avevi detto bene prima, hanno sbagliato a non imporre chiaramente il discorso di primo pilota Alonso nella testa di Massa. Il problema di fondo è quello lì, ormai era necessario prendere una decisione, difatti, come dico, alla Red Bull sono nelle grane, perché voglio vedere che cosa decideranno, perché Webber non è assolutamente d'accordo che debba essere Vettel a vincere, quindi lì si prepara un altro duello, direi molto difficile. Nel caso della Ferrari invece era palese che Massa era un supporto al campione del mondo che era arrivato. Lei la può infiocchettare come vuole, ma quella di ieri rimane una truffa, e difendere anche questo schifo. Voi lo sport non sapete neanche dove sta di casa, dovreste cambiare il titolo della trasmissione, cambiarlo a Tempo di Fuffa, oppure qualche ascoltatore preferirebbe a Tempo di Banalità, se volete possiamo fare anche quello, non con me. Alessandro da Roma, buongiorno. Mi sente? Sì. No. Sì, allora, proviamo. Complimenti a lei perché io la sento spesso e apprezzo però è importante. I miei complimenti per tutto quello che ha detto e quello che ha fatto nel passato a Poltronieri, sì. Però non sono d'accordo. Ma ci mancherebbe che fossimo tutti d'accordo, non è un problema di complimenti reciproci, non è mica una colpa. Ma i complimenti li ho fatti per far capire, sì, che, cioè, voglio dire, a volte non si è d'accordo. Sì. Cioè, io seguo da sempre la Formula 1, ho 61 anni e anzitutto non credo che si possa definire questa norma della quale abbiamo parlato anacronistica, in quanto, come avete giustamente ricordato, è stata introdotta, perché all'epoca era possibile farlo, dopo il sorpasso di Barrichello da parte di Schumacher, organizzato da Jean Todt. Sì. Quindi se è stata immessa in fondo da pochi anni, vuol dire che non è anacronistica, e comunque sia è una regola, ed essendo regola nel mondiale di Formula 1, tant'è vero che tutti si ricordano chi è l'ultimo, il penultimo, il terzultimo campione del mondo come pilota, ma nessuno del grande pubblico sa chi ha vinto l'ultimo, il penultimo, sì, mondiale come costruttori, sì, quindi è un mondiale piloti, sì. E inoltre devo dire che queste cose le fa e le ha fatte sempre solo la Ferrari. Mi scusi, ma voi avete appena parlato di come si metterà la squadra del Red Bull fra Vettel e Webber, perché, sì, avete appena detto che quando è stato ordinato a Webber di far passare il compagno, questo non l'ha fatto, infatti rischierò di perdere il mondiale, Alessandro. Voglio dire, possiamo anche raccontarci che le gare devono essere lo specchio delle regole dell'agonismo, eccetera, eccetera. Però, allora, il mondiale di Formula 1, l'ha detto lei, uno si ricorda chi l'ha vinto, il pilota che l'ha vinto, non il pilota che è arrivato secondo o terzo. L'obiettivo di una squadra che spende milioni e milioni di euro, di dollari, di tutto quello che volete, e nella quale lavorano un migliaio di persone, è quello di vincere il mondiale piloti. Dunque, il mondiale piloti si vince con il pilota che è stato preso, pagato profondamente per fare questo lavoro. Questo lavoro alla Ferrari è in mano ad Alonso e i numeri dicono che Massa non ha più chance, dunque non vedo perché avrebbero dovuto agire diversamente. E poi non mi pare, Mario, che lo faccia solo a Ferrari, o no? Quello lo fanno tutti, con scuse differenti, dicendo riduci la benzina, fai questo, fai quell'altro, insomma. E ti dicevo anch'io, che ringrazio e saluto l'ascoltatore, sono d'accordo per la sportività, ma se cominciamo a parlare di sportività nella Formula 1 di oggi, tu sai che io ho mille motivi per criticarla questa Formula 1. Quindi andiamo, parliamo della corsa, della realtà che abbiamo visto. La doppietta Ferrari è stata una cosa estremamente importante. Come dicevi tu, se avessero cercato di entrare a contatto per combattere, certo, era più facile che succedesse a loro che non ad altri, perché Massa aveva già il dente avvelenato dal, sicuro, famoso ingresso del, sicuro, box in cui Alonso gli aveva soffiato il botto. Potevano sbattersi fuori senza problemi. Ma ci sono delle difficoltà, è da capire. Io non trovo che la Ferrari sia stata nel corso della sua storia particolarmente favorita. Sicuramente in questo periodo è abbastanza sfortunata, perché non dimentichiamoci che anche nelle gare precedenti sono state prese decisioni a favore di Hamilton, per esempio, che di fatto andavano a danno della Ferrari. Per cui io non, francamente, la Ferrari, perché non dimentichiamoci che la Ferrari è realmente la storia della Formula 1, non solo perché ha vinto tante corse per il carisma di Ferrari, ma perché è stata la Ferrari, Enzo Ferrari esattamente, Aleardo Buzzi, Marlboro e Bernie Ecclestone, Formula 1, che hanno messo in piedi questo campionato mirando soprattutto a ottenere il maggior numero di spettatori per avere il maggior numero di sponsor. Inizialmente lo spettacolo c'era, adesso lo spettacolo con la tecnologia che è stata adottata è diventato minore, perché è ovvio che quando i distacchi si misurano in millesi vuol dire che si è arrivati alla punta massima della prestazione, quindi si possono andare fuori giri parlando di curve di motori, cioè la resa diventa minore. E allora ecco che un'occasione come questa, poi per discutere va benissimo, se no avremmo parlato solo di una corsa meravigliosa dicendo la Ferrari finalmente ha raggiunto gli altri. Parliamo anche con Luca da Venezia. Mario, poi ti lascio andare, anzi ti chiedo subito, prima di Luca da Venezia, ne parliamo anche dopo ne parleremo con gli ascoltatori anche dopo il traffico, però un commento invece su Laguna Seca e sulla vittoria di Lorenzo e sul podio di Rossi con una gamba sola. Beh, non c'è corso, è chiaro ormai che i piloti più forti sono quei due, quindi Valentino su un bellissimo circuito che fa rimpiangere la spettacolarità di questo, anche se le riprese sono state sensazionali, ha dimostrato le sue doti, dico un circuito più impegnativo e più difficile di altri, sì. Quindi è chiaro che l'anno 21 si prepara un campionato eccezionale. Fantastico. Perché Valentino sarà sicuramente capace di mettere a posto bene la Ducati. Ma poi vuoi mettere la suggestione Valentino su quella moto? Sono in attesa dei dati d'ascolto che non ho ancora visto sulla corsa di ieri trasmessa da Canale 5, mentre in apertura vi ho detto i dati d'ascolto della Formula 1, tanta roba, 7 milioni 286.050.79% di share ieri per la Rai e per il Gran Premio di Hockenheim. Luca Venezia, buongiorno. Buongiorno a lei. Io volevo solo fare un paio di appunti a quello che ho sentito sul discorso Ferrari. Sì. Nel senso che nella Formula 1 ci sono un certo numero di team e tutti questi team concorrono per vincere il mondiale e portare uno dei propri piloti a vincere il campionato del mondo. Quindi se analizziamo solamente volta per volta quello che succede e cerchiamo delle motivazioni come state facendo, visto dietro e concordo, posso concordare con voi, ma se cerchiamo delle giustificazioni, allora di un regolamento poi ognuno, siccome reputa stupida la regola del non favorire il compagno che ha più punti, l'altro che reputa che non sia giusto diciamo rimanere dietro la safety car e quant'altro, ognuno fa di necessità virtù e andiamo a giustificare tutti quanti. Quindi io non posso concordare. Il discorso è, Luca, al di là della regola per il cui mancato rispetto a Ferrari è stata sanzionata con bel 100.000 di multa, quindi regola c'è, infranta la regola, ha pagato, pagherà, e adesso vedremo cosa deciderà Todd. Insomma, la Ferrari paga l'ingenuità, l'errato comportamento del suo muretto, perché la regola è questa, sappiamo tutti che ci si comporta, che tutti quanti, non solo la Ferrari, si comporta in un'altra maniera, e sarebbe stupido non comportarsi come ha fatto ieri la Ferrari quando c'è un mondiale in ballo, e dunque allora vogliamo lasciar lì la regola e sapendo benissimo che viene aggirati in maniera molto più furba di quanto non abbiamo fatto ieri quella della Ferrari. Non è una questione di regola presente da rispettare a tutti i costi, che tanto poi non viene rispettata. Insomma, non è questione di quello che sta scritto sul libretto del regolamento. Secondo me è semplicemente una questione di buon senso e di sportività. Mario. No, senza dubbio, ma sono d'accordo con te. E come dico, la Ferrari è forse stata ingenua, però ti dirò che francamente io ho apprezzato diciamo come hanno impostato la questione, molto eleganti in un certo senso, cioè dicendogli guarda che stai andando più adagio, prendi in considerazione la situazione, quindi in un certo senso corresponsabilizzando il pilota, e infatti Massa ci ha pensato per un po', poi quando ho trovato un punto in cui tutto sommato il sorpasso sarebbe stato facile, l'ha fatto passare, non è stato nemmeno scandaloso, certo. Si è chiaramente visto che ha rallentato, però insomma non c'era soluzione possibile, e il Mas si sarebbe arrabbiato di più se lo avessero ingannato. Sì, no, ma sì, questo è indubbio, se comunque anche Massa conosce perfettamente le regole del gioco, quindi è inutile star lì a mettere l'accento su alcune cose come ha fatto ieri Massa. Grazie Mario, alla prossima. Arrivederci. Grazie Mario Poltronieri. Tutti i messaggi vostri 349-238-6666. Dopo l'unica e ultima telefonata sono stato espulso da un club di interisti. Ora non rischio nulla. Sono perfettamente d'accordo con la vostra tesi. Anche nel ciclismo il Tour de France lo corrono in 150, ma lo possono vincere solo i capitani delle squadre. In realtà lo possono vincere anche gli altri, però i capitani sono pagati per vincere il Tour de France e gli altri gregari per fare gioco di squadra. E scrive l'ascoltatore: in questo caso nessuno urla allo scandalo quando i gregari debbono aspettare il capitano. C'è poi chi la mette sulle scommesse: avessi puntato su Massa mi sarei sentito truffato. Avessi puntato su Massa, realisticamente la quota di Massa dovrebbe comprendere anche il fatto che è il numero due della squadra. Può essere. Tanto io però voglio tornare a parlare di moto mondiale e vorrei farlo con Graziano Rossi. Buon pomeriggio Graziano. Ciao, buongiorno. Qual è la tua posizione su questa storia del gioco di squadra della Ferrari? Guarda, ha fatto bene, ha fatto male. Secondo me ha fatto benissimo e altro non poteva fare, perché l'obiettivo è vincere il mondiale con il capitano. Questa è una cosa strana da capire, perché lo fanno tutti ed è anche normale che lo si faccia, no? E poi dopo invece, quando viene fuori una situazione come quella di domenica, sembra che nessuno lo sapesse, sembra che sia una cosa scandalosa per tutti. Però bisogna dire una cosa, secondo me la prossima volta che dovesse succedere, la Ferrari sarebbe più pronta, più preparata ad un evento del genere. La Ferrari, intendo i suoi piloti, sì, anche, sì, tutti gli uomini della Ferrari, perché in effetti bisogna dire una cosa: non è stata gestita benissimo questa situazione. Certo, certamente è stata gestita bene. Graziano, nelle moto gli ordini di scuderia non esistono quasi, Coltello tra i denti, manetta girata e via, un po' difficile. Un po' difficile fermare un pilota di moto. Nelle moto esistono sicuramente molto di meno che in Formula 1, anche perché nelle moto c'è comunque in qualsiasi team un primo pilota e un secondo pilota. Quando, come è successo quest'anno al team Yamaha, squadra nella quale Lorenzo e Valentino non si sentivano nessuno un pilota numero due, si arriva presto alla divisione delle proprie strade, dei propri obiettivi, dei propri destini, no? E in ogni caso né Lorenzo né Valentino sarebbero mai in grado di aiutare il loro compagno di squadra. Certo, però mi sembra la situazione lì è sempre stata subito chiara, no? Sul muretto ognuno fa la gara per sé e succede quello che succede. Parlando del tuo figliolo, io credo che questi Gran Premi siano tra i più belli della storia di Valentino, perché nel libro, credo, mancava il capitolo delle corse con una gamba sola, o no? Ma guarda, questa è una la gara di ieri, ad esempio, è stata una sofferenza che secondo me Valentino per la prima volta si trova a dover gestire. Considera che nonostante quello che si possa pensare, cioè che più va avanti la gara e più è la fatica, Valentino invece si è trovato da metà gara in avanti a dover tirare fuori dei tempi speciali, perché la situazione della gara si era messa in un certo modo. Io gli ho mandato un messaggio e ho detto: se c'erano altri 5 giri arrivavi anche stoner, perché poi si è trovato a migliorarsi continuamente fino alla fine, nonostante il dolore crescesse naturalmente col crescere dei giri. Insomma. Ti ha risposto all'SMS? Ancora no, lui mi risponderà domani o dopodomani. Domani o dopodomani dopo c'è fermo. Ci vogliono 4 giorni, generalmente ci mette 4 giorni per rispondere. Senti Graziano, so che non è ufficiale, però un pensiero alla prossima sfida io te lo devo chiedere. Un pensiero alla prossima? La prossima sfida, quella dell'anno prossimo. Rossi sulla rossa. Rossi sulla rossa. La prossima sfida, dicono tutti che sia la Ducati. Io ne so meno di te, perché tu sei... Ma mettiamo che sia così. Valentino, su quella moto, che sensazioni ti potrebbe dare? A me la sensazione è soprattutto una. Ed è questa: ho una grande ammirazione per Filippo Preziosi, che è l'ingegnere ed è l'artefice principale del motore della moto Ducati, ed è amico di Valentino da diversi anni, da qualche anno, si sono sentiti spesso nel corso di questi campionati per scambiarsi delle opinioni, dei pareri, delle battute sulle corse, e mi pare che questo rapporto potrebbe portare dei risultati abbastanza magici. Ecco, sì. Vedo la magia in un rapporto di questo genere. Mi sa che la vedono. Se dovesse avverarsi. Mi sa che la vedono anche un sacco di italiani la magia. Graziano, mondiale per chiudere, mondiale finito questo. Pedrosa, insomma, ha dimostrato ancora ieri di non avere i numeri, forse sotto la tuta, all'altezza del petto, di non avere il cuore o i maroni, se preferisci, per vincere un mondiale. Purtroppo per lui ha dimostrato questo anche ieri, anche se poi, sai, non è poi neanche così vero, sbagliare succede a tutti. Però io credo che ammesso sicuramente che Lorenzo quest'anno ha già vinto il mondiale, no? Sì. Però tu ti ricordi che il mondiale l'anno successivo si ricordano le ultime 2, 3, 4, 5 gare, no? Mondiale non è sempre meraviglioso. Quando c'è qualcuno che ti rovina le ultime gare, il mondiale perde un po' del suo fascino. Sì. Credo sì. Che Valentino stia pensando a un progetto di questo genere, secondo me. Stia pensando di fare il guastafeste, perfettamente calato nel ruolo. Grazie, Graziano. Un abbraccio. Buona giornata, grazie. Grazie davvero. A tempo di magna magna, anche la vostra trasmissione si adegua ai tempi. Paolo da Roma, non so perché magna magna, Paolo, perché non mi chiama e me lo spiega perché magna magna. Ve l'ho detto, se preferite facciamo a tempo di demagogia e diciamo un sacco di banalità, se preferite, ma non con me però. 800 24 00 24, numero verde, vedete che un altro lo trovano per riempire questo spazio di demagogia, se preferite. Marco, provincia di Ferrara, poi Giorgio, Marco da Frosinone invece, Davide da Bologna, un sacco di ascoltatori. Marco, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Niente, io non posso che trovarmi d'accordo con lei. Innanzitutto sono solidale per quei messaggi che scrivono che non capite niente di sport. Ma no, io credo... ma è bello così, ma fa parte del gioco. Parliamoci chiaro. Io venerdì mi sono divertito un sacco, lei se ci ascolta lo sa, con Silvia, che oggi sono ancora ascoltatori. Ma che fine ha fatto Silvia di venerdì? Le moto, le auto gli piacciono, Fabrizio da Chiavari, non so che fine ha fatto Silvia, ma l'aspetto sempre qui al telefono, perché messaggi poi, io preferisco parlare con voi piuttosto che leggere quello che mi scrivete in poche parole. Dica, Marco. Niente, io credo sopra una cosa, a me piace la Formula 1, piace tutto quello che è motore, però io credo che se ieri errore c'è stato, ammesso e non concesso, l'errore sia stato un po' banale, quello di Massa, perché cioè, la Ferrari sapeva che l'intercettazione, adesso che se ne parla tanto, cioè, i discorsi fra box e pilota sono solo di pubblico dominio. Certo. Io non credo che la Ferrari non ha detto fai passare quell'altro perché deve arrivare prima di te. Sì, però per quello che hanno detto erano facilmente beccabili, come poi è successo. Sì, no? Massa si deve mettere nella testa una cosa, cioè che è un professionista. Adesso, come lei dice bene, se Alonso è il pilota preposto e poi quello che classifica è l'unico che può veramente portare a casa qualche cosa, cioè non doveva farlo in una maniera così plateale. Forse, ecco, per me l'errore è stato lì. Poi dopo lo sport è un gioco di squadra, cioè Contador non ha aspettato quello che gli è saltata giù la catena, ma l'ha vinto lo stesso Tour de France. Ma è chiaro, ma insomma sono discorsi che abbiamo fatto settimana scorsa e poi rifaremo, perché sono comunque interessanti. Insomma, io preferisco Contador che attacchi in maniera un po' furfantesca in quella situazione, piuttosto che Contador che fa tutta la pantomima dopo, con le scuse e le controscuse, e piuttosto che Contador che abbraccia il suo amichetto e insieme passano il traguardo del Tourmalet. Quello mi è sembrato molto più stucchevole, meno apprezzabile. almeno dal mio punto di vista sarò cinico, ma per me lo sport professionistico è questo, è la Ferrari di ieri, è Contador che si veste di giallo approfittando anche di quanto è successo quel giorno al suo rivale. Leo da Cento che mi scrive: la prego, non faccia come tutti i vari TG pubblici e privati che si sono dimenticati totalmente di Stoner, che è un grande pilota e campione del mondo, è arrivato secondo. Su questo non è un TG pubblico privato, non... la cronaca è quella che sta oggi sui giornali, è quella che avete sentito nei TG pubblici e privati. Qui stiamo semplicemente chiacchierando tra amici. È chiaro che la cronaca dice, ma non mi sembra il caso di riepilogare l'ordine di arrivo dal primo all'ultimo. Stoner è arrivato secondo, certamente. Io piuttosto mi sento di notare che ormai la grande pilota certamente un po' in crisi di identità, secondo me, perché in questa sede invece andrebbe notato piuttosto come è arrivato ormai a 10 gare senza vittoria della striscia più lunga da quando Stoner ha appoggiato il sedere sul sellino della Ducati. Giorgio, buongiorno. Buongiorno. Volevo dire una cosa molto semplice. Io seguo sempre la Formula 1 da quando ero ragazzo, sì, e mi ricordo che i grandi campioni, quando gli dicevano di stare di dietro, cioè di lasciar passare il compagno che era più veloce, spesso non accettavano. Io mi ricordo le sfide tra Prost e Senna che hanno rotto tantissime macchine, ma nessun'altra scuderia ha vinto il costruttore ai tempi della McLaren, e o vinceva Senna o vinceva Prost per almeno 5 anni. Sì. Poi invece mi ricordo la Williams ai tempi di Piquet e Mansell, in cui persero il mondiale per bulloni e perché ordini di scuderia non ne arrivavano. Però il mio ragionamento è questo: il campionato costruttore è nato dopo il piloti invece è nato prima ed è quello che tutti ricordano. Certo. Ormai non coincidono, perché se coincidessero sarebbe palese che per vincere uno e l'altro bisogna puntare sul pilota più forte. Sì, ma non ci trovo nulla di male nel non farli coincidere, Giorgio. Non mi sembra così determinante il fatto che coincidano o no. Infatti il motivo è che attualmente sono due macchine per ogni scuderia, ne vogliono mettere anche forse tre, sì, perché chiaramente le scuderie si stanno riducendo di numero e lo spettacolo sta un po' scemando. Sì. Però la mia questione, e poi lascio l'intervento anche ad altri ascoltatori, sì. Ma ieri è stata la scuderia a dire a Massa: guarda che il tuo compagno è più veloce, o è stato Alonso a chiedere al muretto: guardate che il mio compagno è più lento di me, fatelo spostare? Perché se così si capisce chi è il grande campione, cioè quello che fa il professionista e si toglie, forse in maniera troppo plateale, ma si toglie ubbidendo, oppure quello dietro che chiede: oh, paghiamo una multa di $100,000, però sì, almeno io passo e ce la giochiamo e io me la posso ancora giocare. Sì, ma anche lì non può essere, sì, una sottoconsiderazione interessante questa, però al di là di tutto è compito anche degli uomini Ferrari capire l'andamento della corsa e agire in quella maniera, perché è compito loro, perché l'obiettivo della squadra Ferrari è la vittoria nel mondiale piloti. Il mondiale piloti lo può vincere solo Fernando Alonso, dunque perché autocastrarsi lasciando dei punti a Massa, che ormai in classifica piloti non sa più che farsene. Quindi semplicemente questo, sarà un discorso cinico, ma lo sport è questo. Marco Frosinone, buongiorno. Buongiorno, senta, io volevo esprimere il mio disappunto per quello che è successo ieri, sì, per come la pensate voi in trasmissione, ma per un semplice motivo, perché mi sembra una mentalità figlia un po' dell'approccio italiano di avvicinarsi allo sport, perché prima critichiamo tanto il mondo del calcio per quanto riguarda il settore giovanile, la realtà sportiva, che c'entra? E poi che siamo c'entra? D'accordo con il comportamento che hanno avuto i tecnici della Ferrari. No, ma allora Marco, facciamo così. No, ma raccontiamoci le favole allora. Diciamoci no, allora non è che raccontiamo che... le favole. Io le ricordo semplicemente, sì, che se alla McLaren negli anni 80 ci fosse stato un domenicale, un Jean Todt, la grande era Prost e Senna che combattevano in pista e si aggiudicavano il mondiale in pista, non ci sarebbe stata. Sì. E ricordo che Lewis Hamilton ha perso un mondiale all'ultima gara nel 2007. Sì. Nel 2007, perché non c'è stato neanche il gioco di squadra tra lui e Alonso, a discapito della McLaren che non ha vinto il mondiale piloti, sì, però a favore della cosiddetta realtà sportiva che noi italiani sembra che ci abbiamo solamente quando ci fa comodo. Ma che cosa? Le ricordo. No, vabbè, Marco, mi ha ricordato. Un mondiale piloti e un mondiale costruttori. Sì, esatto, un mondiale piloti e un mondiale costruttori. Ai team interessa moltissimo il mondiale costruttori, ma quello che conta è il mondiale piloti, perché questo lo sappiamo tutti. Poi, detto questo, se vogliamo raccontarci le favole, raccontiamocele. Se noi vediamo due della stessa squadra che si sbattono fuori e perdono il mondiale, pensiamo che sono stati bravi e leali, io penso sono stati fessi, perché se hanno la possibilità di vincere il mondiale e lo fanno vincere al terzo che gode, sono stati dei fessi. E sono stati dei fessi perché una squadra investe fior di quattrini per arrivare all'obiettivo di vincere il mondiale piloti. Quindi se lo perdono perché si autoeliminano da soli, non credo che chi ha messo tutti quei quattrini sia propriamente contento, al di là di tanti discorsi demagogici e di tante favole. Davide da Bologna. Buon pomeriggio. Le chiedevo questo: io fino adesso ho sempre solo sentito esaltare la grandezza di Valentino dopo il suo rientro alle corse. Sì. Tale è, perché non c'è niente da dire. Però io le dico l'impressione che ho avuto ieri, averlo visto lì al parco chiuso con la stampella e avergli sentito dire sono finito perché ho male dappertutto, eccetera. Poi averlo visto sul podio con le stampelle, io ho avuto una sensazione un po' diversa. Cioè, lui penso che, a parere mio, adesso mi tirerò lì le ire di tutti, però lui è un grandissimo campione, è il motociclismo fatto persona, ma sì, cosa deve dimostrare a chi? Semplicemente questo, ecco. Cioè, lei dice potrebbe stare a casa sua a guarire. Ma sì, cioè, voglio dire, in parte perché lo fa? Ma lo fa perché è un campione. Lo fa perché, perché i piloti sono così. Sì, no, ma io la capisco. Marco, Davide, ma anch'io, io e lei non lo faremmo, ma infatti noi non siamo motociclisti né fuori classi. I piloti, soprattutto i motociclisti, sono così, e se non fossero così non sarebbero. Quindi semplicemente per questo Valentino Rossi non ha da dimostrare nulla a nessuno, non ha da pagare nessun debito con nessuno, anzi io resto convinto del fatto che alla Ducati passino le corse, i gran premi con le dita incrociate, perché se questo scivola è un problema grosso per il futuro di Valentino Rossi e della Ducati. Però i piloti sono così, chi glielo fa fare? Ma nessuno. Chi vuole che glielo faccia fare? Glielo fa fare la sua grandezza. Tour de France, Pieragusto Staggi sulla via del ritorno da Parigi. Ciao Pieragusto. Ciao, come stai? Non c'è male, anche se siamo qui a raccontarci un po' di storielle sulla lealtà sportiva, no? Sento, ormai è l'argomento del momento. Cosa ne pensi? Ma io penso che comunque sì. Applicando il discorso anche al ciclismo, certamente l'hanno fatto in maniera facilone, superficiale, si sono beccati una multa che secondo me va a sanzionare la superficialità degli uomini del muretto, probabilmente. Sì, ho capito, però io ti dico, io non sono un grande esperto, però ho gli occhi, l'ho visto ieri in sala stampa, la partenza del Gran Premio, dopo 35 metri io ho visto un pilota che schiacciava Alonso contro il muretto, lì io mi fermo, perché se vogliamo essere corretti, coerenti e sportivi, lo si è fino a lì, quello lì doveva essere fermo. Cioè, anche lo stesso Massa era in testa perché ha sfruttato l'irregolarità di un avversario che ha fatto fuori un suo compagno di squadra, io lo penso sì. Così. Poi tutto il resto, e poi sono due compagni di squadra. Ecco, io trovo più stucchevole il fair play, ne abbiamo parlato tanto, certo, tra due avversari, ma il gioco di squadra, poi parli con uno che si occupa di ciclismo e vince uno, ma non vinci se non hai una squadra che ti supporta, ma certo, neanche Lance Armstrong, scusa, il discorso che aveva una squadra, certo, strepitosa. E ma il discorso si fa ogni giorno nel ciclismo, no? C'è chi va in fuga, chi rallenta la fuga, chi è in fuga e si ferma per fare gioco di squadra. Cioè, è gioco di squadra, non stiamo lì a parlare di sportività in quel caso. In quel caso lo accettiamo, nel caso invece della Formula 1 no. Senti, io volevo chiederti, visto che abbiamo oggi poco tempo, ma torneremo, quando tornerà a Milano sarai qui mio gradito ospite e parleremo a lungo di questo tour un po' deludente. Volevo che tu mi dessi qualche voto al tour. Ma voto al tour 7, perché il tour però appunto non è eccelso, perché la grandezza del tour è stata confermata, la mondializzazione pure, tanta gente, tanti campioni, però è stato un tour un po' grigio. Contador, grigio, perché voto a Contador 7.5, perché comunque vincerlo non al top e da grandi campioni, vincerlo per la terza volta a 27 anni è veramente da miti, a 27 anni c'ha 5 grandi tour. Faccio una riflessione che mi lascia allibito: guardavo l'albo d'oro degli ultimi 20 anni, sai quante vittorie hanno fatto gli spagnoli negli ultimi 20 anni? Tante. 10. 5 con Miguel Indurain, poi con Oscar Pereiro, Carlos Astra e tre volte Contador. Facciamo prima, poi diciamo l'albo d'oro è facilissimo: 7 volte Lance Armstrong più Bjarn Riis, Jan Ullrich e Marco Pantani. E gli altri 10 gli spagnoli. Senti, invece, voto a Lance Armstrong, che ieri ha salutato tutti in questo tour. Guarda, ieri è l'unica volta che veramente, anche lì, vedi, siamo un po' alla schizofrenia. Avevamo il presidente di giuria italiano, Francesco Cenere, si chiama, persona garbatissima, per bene, molto preparata. Però nella tappa di Spa si fa mettere praticamente i piedi in testa e decide cancellare, che la gara va neutralizzata. Sì. Poi ieri, perché c'è la passerella finale, c'è una tappa che non vale assolutamente nulla, se non per lo spettacolo, se non per la maglia verde, quindi per uno sprint, Lance Armstrong vuole partire per questo addio con una maglia nera, Livestrong, la sua fondazione, con un numero giallo 28 a indicare i 28 milioni di persone che stanno lottando quotidianamente contro il cancro, e il regolamento UCI dice no, non si può cambiare la maglia, e gli danno la multa e poi... danno la multa, ecco. Quindi diciamo, io ieri 10 per la solidarietà all'Armstrong. L'Armstrong di quest'anno è un Armstrong da onestamente 4. Perché? Sì. Perché era arrivato con... Sai cosa? È un Armstrong un po' triste, come tristi sono tutti questi grandi ritorni, compreso quello alla fine della storia di Michael Schumacher. Pier Augusto, io devo chiudere, ma ti aspetto qui appena arrivi a Milano. Volentieri. E continueremo a dare i voti a questo Tour de France, magari anche i vostri voti, nei prossimi giorni, naturalmente, senza fretta. Grazie a Flavio Suarni in redazione, a Fabio Cantadone in regia, ci sentiamo domani alle 2:00.